penso dopo tutto sto tempo. Sti mesi vicino non eri, ma ce ne metto insieme. Ci tengo a te, lo sai, ancora parole ma dai. Ti ascolto, dai. Mi piace sentirti parlare, vederti cantare, mi fai girare la testa. Me l'è cambiata, spero non reciti l'innamorata. Con te ho le ali volo, non dire finita che muoio. A volte sbaglio, dubito di essere l'unico. Ora è tutto a posto, non pensiamoci più. Andiamo nel letto, guardiamo la TV. Tanto mi incanto nei tuoi occhi blu. Lì mi immergerò, sognerò. Fino a quando il nodo in gola non scende giù. Ogni volta il primo bacio, ogni volta il déjà vu magico. In tua compagnia, nel tuo modo di fare, c'è della magia. Ogni giorno lotto in tua compagnia. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso. Started col braccialetto, lo Scooby-Doo che mi hai regalato. Tu lo tengo accanto per non sentirmi solo. Solo con te che spicco il volo. Con te non penso al destino, sono in paradiso. Tra il tuo sorriso, il tuo dolce respiro, chiedendomi se la simile mi merita. Mentre in specchio, nella sua retina, ti porto fuori al cinema, dove vuoi, in capo al mondo. Saremo solo noi, non c'è niente di meglio che vederti così. Stupenda come sei, stupenda così. Indescrivibile per bellezza, carattere. Per questo il cuore mio non smetterà di battere. Ora ho la prova, dopo nascere dal niente. Ho conosciuto te e mi completi pienamente. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso. Occhio guarda occhio, labbra sfiora labbra. Io la bacio, le mie abbraccia. Ancora soli, ma in capo al mondo. La tua dolcezza colgo. Tutto bello, il tempo passa in un secondo. Il tempo vola, sembra un attimo. Poco tempo, ma magico. Noi, il nostro amore, siamo soli ormai. Io ti voglio, adesso più che mai. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso. L'unica che voglio, che sogno, l'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro, con un sentimento. L'unica di cui sono perso, per la quale penso alla storia, al senso.